Queste sono canzoni bonsai e sono state concepite dall'inventore, che poi sarei io, per ottenere il minimo ingombro, vale a dire, insomma, per disturbare di meno, ecco. Il prototipo della canzone bonsai si intitola La canzone, tutto attaccato. La canzone incomincia qua e prima o poi arriverà a metà. Inevitabilmente, inesorabilmente, la canzone a un certo punto finirà. In questo caso è finita già,